Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. Al Chievo, già promosso, basta un punto per chiudere il primo posto di classifica e alzare al cielo la coppa portata apposta dal presidente di Lega Mattarrese. Mentre il Bari è acquartierato da tempo a metà gruppo, Iachini e Conte danno spazio a quelli che finora hanno giocato meno. 7 minuti appena per il vantaggio gialloblu di Junco sulla conclusione di Rosi, che Spada Vecchia non trattiene. E il Bari pareggia, Cesar manca l'intervento sul lancio per Cavaldi che salta al Degani in uscita. 1-1. 5 minuti e Chievo torna però in vantaggio, ancora Junco, ancora lui, di testa, stavolta il cross da destra è di Moro. Al 26esimo, per un placcaggio di Mandelli su Santoruvo in area gialloblu, Palanca assegna il rigore e lo stesso attaccante barese trasforma dal dischetto, 2-2. Poi la grande festa sugli spalti e in campo col presidente di Lega Antonio Mattarrese, che consegna la coppa al capitano Pellissier e premia con una medaglia giocatori e staff tecnico gialloblu. Eh già, per certi aspetti indimenticabile quel Chievo-Bari che il 1 giugno del 2008 chiuse il campionato di Serie B e vide i clivensi, già promossi, aggiudicarsi, proprio grazie a quel pareggio, il platonico, ma fino a un certo punto, titolo di vincitori del campionato cadetto. Una partita, neppure per certi aspetti, tra quelle più analizzate in quel processo al calcio scommesse che ha preso il via a Cremona, e che è di fatto il momento culmine di quell'inchiesta, denominata Last Bet, la ricorderete, che 4 anni fa rese incandescente la già infuocata estate del calcio italiano, e che ha coinvolto molti big del nostro football, dalla stella atalantina Cristiano Doni, all'ex Lazio, Bologna e Nazionale Beppe Signori, fino all'attuale CT azzurro Antonio Conte, insieme a tanti comprimari del nostro universo pallonaro. Attivi però, e ricorderete in questo caso ad esempio il portiere della Cremonese, Paoloni, che ha innescato le indagini, attivi, dicevamo, secondo l'accusa, ad alterare i risultati delle gare a favore di complici scommettitori. E allora non a epiche imprese sportive ci invitano a guardare oggi gli dèi dello sport, bensì a scartabellare tra le migliaia di pagine di un processo che, qualunque sarà il suo esito finale, lascerà comunque il segno nella storia del nostro sport. Ne parliamo oggi con un ospite che ha seguito l'inchiesta Last Bet fin dai suoi primi passi, con scrupolo ed attenzione al punto da ricavarne oggi un documentato ebook dal titolo Ingiustizia sportiva, lo strano caso del dottor Palazzi e Mister Conte, edito da Informant. Dario Nicolini, collega giornalista di Sky Sport, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie, grazie. Ti chiedo subito, Dario, grande attenzione mediatica sul processo di Cremona, come ovvio, radicato in un'inchiesta che, correggimi se sbaglio, non ha toccato solo il mondo del calcio. No, assolutamente, l'ultima parte ha riguardato il tennis e comunque il calcio ha riguardato più serie, la Serie A, la Serie B, la Lega Pro. Se posso, e non posso, ma insomma se mi posso permettere di fare un appunto al lavoro di Martino e del giudice Salvini, che sono sicuramente stati molto approfonditi in tal senso, beh forse lo sono stati troppo, nel senso che 4 anni e passa di indagini, poi in un sistema come il nostro portano all'avvicinamento della prescrizione e sappiamo quanto ci mettono 3 gradi di giudizio per essere portati a termine e quindi potrebbe essere stato troppo vasto questo lavoro, forse, ma è un appunto che a livello giornalistico mi sento di fare, ma personalmente capisco il lavoro che hanno dovuto fare e tra l'altro in pochissimi, procura Cremona, se si fosse circoscritto di più il campo le indagini sarebbero date un po' di meno, magari si sarebbe venuto a sapere qualcosa in meno, ma si avrebbe anche avuta la certezza di un'eventuale pena per i 104 rinviati a giudizio. Ecco, questo sotto il profilo penale. Mentre invece la giustizia sportiva che atteggiamento ha avuto? È riuscita ad essere davvero equa secondo te? Diciamo che se la mediaticità è molto forte e quindi riguarda personaggi di primo piano dell'ambito nazionale, è ovvio che c'è anche una pressione da parte dei media, da parte della gente che magari non arriva a capire quel tipo di giustizia, che potrebbe far vacillare, secondo me in certi casi ha fatto vacillare i convincimenti già a partire dall'accusa ma poi anche dei gradi di giudizio. Se invece i personaggi di riferimento sono magari di Serie B, di Lega Pro o comunque non sono nomi particolarmente altisonanti, si sa che poi alla fine a livello mediatico nessuno andrà effettivamente a leggere, a guardare le carte, a spulciarle, nessuno o quasi visto che io l'ho fatto, e vedi la differenza che c'è tra un'accusa da parte di una stessa persona e i differenti trattamenti che vengono fatti a livello già di deferimento, quindi già di rinvio a giudizio, senza arrivare ancora al giudizio. Insomma, una giustizia, se ho capito bene, forte coi deboli e debole con i forti. Caro Dario, in questo viaggio che stiamo facendo tra le carte processuali del processo cremonese, siamo partiti da una partita Chievo-Bari del 1 giugno del 2008, finita 2-2. Magari, lo ricordavamo, non tra le più significative dal punto di vista penale, ma che ben rende l'idea di un clima di lassismo, opacità, connivenza, in cui attecchiscono poi la corruzione e l'illegalità. Ci vuoi raccontare brevemente quale sarebbe stata l'origine di quel 2-2 secondo le testimonianze che hai raccolto nel tuo libro? Sì, è più grottesca che tragica, insomma, del racconto che viene fatto da due ex giocatori di quel Bari, cioè Santoruvo e Ganci. In pratica ci sarebbe stata la comunicazione da parte dell'allora presidente del Bari di fare in modo che la partita finisse in un certo modo, di fatto per far vincere il campionato almeno con un pareggio al Chievo. Il campionato di Serie B, il Chievo era già comunque promosso in Serie A e semplicemente si giocava la vittoria o meno del campionato, il Bologna dall'altra parte stava giocando la sua partita, di modo che l'allora presidente, questo dal racconto di Santoruvo e Ganci, l'allora presidente di Lega Antonio Matarrese, che era già nelle pressi di Verona, avrebbe premiato il Chievo piuttosto che doversi spostare a Bologna per premiare il Bologna. Questa è una cosa che ovviamente fa sorridere, perché non sposta di tantissimo, a parte ovviamente la vittoria di un campionato che è importante, ma comunque c'è stata la promozione sia del Chievo che del Bologna, ma fa capire che magari determinate realtà, come peraltro è stato sottolineato dagli stessi processi, perché Bari ne ha avuto addirittura due a livello sportivo, oltre ovviamente a quello di tipo penale, andrebbero un attimino così analizzate e capite nello specifico, perché non si può arrivare a questo tipo di situazione. Beh, è davvero incredibile l'episodio che ci hai raccontato. Ricordiamo poi che per il suo coinvolgimento Santoruvo è stato squalificato nel luglio del 2013 per 3 anni e 6 mesi, mentre il CT Antonio Conte ha processo a Cremona per un'altra partita, Siena Albino Leffe del maggio 2011, in cui gli sarebbe contestata l'omessa denuncia per la combina. Ecco Dario, cosa dobbiamo aspettarci ora dal processo che è appena iniziato a Cremona? Il processo è complicato, è lungo, ci sono 104 rinvii a giudizio, ci sono posizioni estremamente differenti all'interno. C'è chi è stato imputato di associazione e c'è invece chi ha soltanto la sportiva. Sicuramente il quadro accusatorio è particolarmente ampio, le posizioni sono tante, bisognerà innanzitutto capire le tempistiche, secondo me sono primarie, perché come detto, avendo già mangiato tra virgolette tanto tempo con l'indagine, rimane poco, che non è poco perché sarebbero comunque più di 3 anni, ma per la lentezza della giustizia italiana è comunque poco, per arrivare al terzo definitivo grado di giudizio. Anzi, in moltissimi sostengono che non ci si potrà arrivare comunque, e quindi potrebbe essere stato veramente tutto un grande polverone per nulla, nel senso che poi verrebbero prescritte anche tutte le eventuali condanne. E questo è difficile. Nell'imminente c'è da capire se l'associazione dovrebbe rimanere comunque di competenza di Cremona. Per la frode sportiva si potrebbe invece cambiare tipo di scenario, cioè spostarsi nelle procure dove l'illecito o comunque ciò che viene imputato agli indagati si è compiuto, e in quel caso lì sarebbe un ulteriore spezzettamento del processo con ulteriore perdita di tempo, e anche in quel caso il rischio di prescrizione sarebbe davvero più che incombente. Quindi quello mi sembra l'aspetto primario. Ti chiedo ancora, a conclusione di questa nostra chiacchierata, per l'idea che ti sei fatto seguendo l'inchiesta di Cremona, si può ancora avere fiducia nella credibilità dello sport, del nostro sport? Il nostro sport è credibile, il nostro calcio è credibile, non è tutto calcio scommesse, non sono tutte combine, assolutamente. È una minima parte, c'è stata, non ho prove per dire che ci sia tuttora e spero bene che non ci sia tuttora, ma per evitare che ci sia tuttora e soprattutto per evitare che ci possa essere in futuro, bisogna fare molta attenzione, non soltanto a quello che succede adesso, ma anche a quello che è successo negli ultimi anni, di modo da avere un'idea molto chiara della situazione, da avere la possibilità di capire come è stato gestito questo scandalo che ormai dura da 5 anni, e tra l'altro proprio in questi giorni stiamo vedendo appunto che cosa sta succedendo a Cremona con l'inizio, l'udienza preliminare e poi le prime fasi del processo dal punto di vista penale, e quindi sapersi regolare di conseguenza, perché sappiamo che già non è bello sapere o vedere una partita combinata, meno ancora abbiamo visto quando poi si inserisce la criminalità vera, quella non soltanto nazionale ma anche internazionale, e quindi poi entrano i soldi, entrano le corruzioni e tutto un mondo che non vogliamo proprio neanche avvicinare. Dario Nicolini, autore, lo ricordo, dell'ebook Ingiustizia sportiva, lo strano caso del dottor Palazzi e Mister Conte, edito da Informant. Grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Ringrazio io voi, grazie a voi. Ora una breve pausa, poi vi aspetto ancora qui a Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presento Olimpia, miti e verità dello sport. I was not approached directly. I was approached through, well, I mean me personally, through people that were working with me at that time, that were in my team, and of course we threw it away right away. I mean, it didn't even get to me. You know, it made me feel terrible because I don't want to be anyhow linked to this kind of, you know, somebody may call it an opportunity, I call it a, for me that's an act of unsportsmanship, a crime in sport, honestly. Il processo di Cremona, lo scandalo che ha travolto la FIFA, i mille rivoli delle scommesse illegali. È il calcio, certo, lo sport più seguito al mondo, al centro dei fenomeni di illegalità e corruzione. Ma non solo, e ben lo testimoniano le parole che abbiamo appena ascoltato, pronunciate dal numero uno del tennis mondiale, il serbo Novak Djokovic, che appena poche settimane fa ha denunciato di essere stato avvicinato, o meglio persone del suo entourage, quando ancora era appena un promettente tennista, da faccendieri pronti a offrirgli denaro per alterare l'esito di match che lo vedevano protagonista. Il mercato delle scommesse sportive del resto è uno dei più remunerativi al mondo. Secondo le stime presentate nel maggio scorso al Congresso contro la droga e il crimine organizzato dalle Nazioni Unite e dal Centro Internazionale per la Sicurezza nello Sport a Doha, in Qatar, infatti a livello globale le scommesse generano un volume di denaro che si attesta tra i 1.000 e i 3.000 miliardi di dollari all'anno. Calcio, tennis e cricket sono gli sport che raccolgono la maggior parte delle puntate. E tra i problemi emersi nel corso di quel congresso si è imposto anche il tema della legalità, visto che il 90% degli scommettitori utilizza siti illegali e circuiti di scommesse che non rispettano le normative vigenti nei vari paesi. Insomma, una piaga, quella del match fixing e anche quella della corruzione diffusa in ogni sport e a ogni latitudine, come testimonia anche l'ultimo rapporto dedicato al tema da Transparency International, l'organizzazione non governativa che studia la diffusione dei fenomeni di corruzione nel mondo e presentato proprio a Milano. Uno studio globale che ha toccato molti aspetti del fenomeno corruttivo nell'universo sportivo, come spiega il presidente di Transparency International Italia, Virginio Carnevali, intervistato dall'area Vecchio. Molti aspetti di corruzione, aspetti di grande corruzione e anche, diciamo, per questa volta per l'Italia un aspetto positivo che nel report è contenuto il codice etico per lo sport del Comune di Milano. Quindi per questa volta almeno in un report globale mondiale l'Italia ha un ruolo, diciamo, positivo e non negativo come spesso succede. Interessante appunto l'esperienza varata in questi mesi dal Comune di Milano, un codice etico cui le società sportive milanesi devono rifarsi come requisito fondamentale per entrare in dialogo col Comune e applicare quindi le best practice anticorruzione. L'assessora allo sport del Comune di Milano, Chiara Bisconti, illustra i tratti distintivi di questo codice etico. Questo codice etico, che è stato annoverato da Transparency International come una best practice internazionale, di cui quindi sono molto orgogliosa, è stato intanto costruito con l'apporto delle due associazioni, Avviso Pubblico e Transparency International, ma anche con i nostri concessionari, con le nostre società sportive. Quindi nasce già come strumento di autodiagnosi. È molto articolato, ha tutta una serie di aspetti che va a coprire e quindi funziona e funzionerà proprio perché è una sorta di autoresponsabilizzazione del soggetto che gestisce lo sport a Milano, dei diversi soggetti. Io, se posso dire, una sorta di checklist. È vincolante adottarlo, Man mano che il percorso andrà avanti andremo anche a capire quanto lo possiamo rendere sempre più cogente, per esempio nei confronti di una richiesta di fideiussione da parte del Comune di Milano o proprio per avere il titolo per poter avere una concessione col Comune di Milano. Quindi per adesso è vincolante adottarlo, ma questo primo passo ha reso la discussione con le società sportive sul codice molto fruttifera, molto interessante, perché si è capito che il senso di un codice etico è portare la consapevolezza all'interno dell'associazione, che si vada a fare un'autodiagnosi sui diversi aspetti dove si può nascondere o che possono essere fragili rispetto a episodi di corruzione. È proprio l'articolazione e la ricchezza degli aspetti che fa davvero antidoto a fenomeni di illegalità o di corruzione. Un primo passo, certo, ma importante, come sottolinea ancora il presidente di Transparency Carnevali. Sicuramente è un modello replicabile, credo che già altre città si stiano interessando per replicarlo. E è un modello interessante in quanto impegna tutti coloro, tutti gli stakeholder nel campo sportivo della città di Milano, quindi tutte le organizzazioni che sono finanziate dal comune, tutti quelli che hanno in gestione strutture comunali, si obbligano a un certo tipo di comportamento, quindi credo che sia importante. Non è sufficiente, come non sono sufficienti le leggi, come, però voglio dire è darsi quantomeno darsi delle regole e cercare di organizzare le cose per rendere più difficile il malaffare. Strumenti normativi che del resto si stanno moltiplicando e stanno producendo i primi frutti, soprattutto a livello dello sport di base, sottolinea Francesco Tufarelli, direttore dell'ufficio sport della Presidenza del Consiglio, ancora al microfono di Laia Vecchio. Abbiamo visto in come le diverse realtà, anche molto differenziate, per lo sport di alto livello, lo sport di base e le associazioni si ritrovino su questi progetti, quindi diciamo che certo lo stimolo a legiferare bene c'è sempre, però comunque questi codici, l'autoregolamentazione, soprattutto quando realizzati in collaborazione con le esperienze come quelle di Transparency, sono comunque degli strumenti importanti. Ma siamo all'inizio e richiede una fase di studio, richiede anche una fase di approfondimento e probabilmente le società, questo codice sta iniziando ad essere divulgato all'interno delle varie società. È uno sforzo anche culturale che è necessario fare. L'importanza è che questi strumenti vengano predisposti, l'importante è che venga ampliata la platea di quelli che su questo collaborano in modo da coinvolgere anche le esperienze e avere anche gli apporti da quelli che materialmente e quotidianamente stanno sul campo. E questo secondo me è la cosa principale. Quindi probabilmente queste prime società e associazioni che già stanno aderendo saranno poi dopo degli attori fondamentali anche per eventuali miglioramenti del codice o implementazioni in situazioni particolari. Sport di base, sport professionistico, grandi eventi. Tante quindi le aree a rischio dello sport mondiale da tutelare. E per l'Italia in particolare c'è la candidatura olimpica di Roma ad ospitare i giochi del 2024, la cui credibilità passa anche attraverso questo sentiero. Ancora Carnevali. Beh, al momento è un po' prematuro per vedere cosa si sta facendo. Certo che cominciano a viaggiare i primi soldi e la cosa importante sarà vedere se effettivamente Roma dovesse vincere questa candidatura, e allora ci sarebbe da rivedere tutto, perché non si può affrontare con la situazione che c'è in Italia, soprattutto a Roma, dopo che abbiamo visto Mafia Capitale. Diciamo che ci sono 10 anni e diciamo 10 anni di tempo per mettere a posto le cose, quantomeno per migliorarle, e diciamo che potrebbe essere teoricamente anche uno stimolo. Visto che non ci si può presentare al mondo nella situazione che siamo adesso, potrebbe essere anche uno stimolo per migliorare. Sulla trasparenza della corsa olimpica, l'Italia gioca buona parte della propria credibilità. Molti strumenti di autodifesa già ci sono, ricorda Francesco Tufarelli. Basta saperli utilizzare a tutela dell'intero sistema paese. La linea dell'organizzazione prevede una costruzione di una fase di candidatura, una presentazione di un dossier olimpico e quindi sostanzialmente un sistema anche di governance particolare e assolutamente coerente con quelle che sono le indicazioni dei comitati internazionali. In più l'Italia ha su questo anche delle regole interne particolarmente rigide, tant'è che quando noi andiamo a confrontarci sulle direttive internazionali, in realtà il nostro sistema penale, il nostro anche sistema di governo è abbastanza considerato più rigido dagli altri, quindi sostanzialmente gran parte delle normative comunitarie, anche delle normative internazionali, ci trovano già pronti come disegno delle pene. Poi chiaramente fondamentale la collaborazione di tutti i livelli di governo, quindi sostanzialmente le Olimpiadi di Roma, come le altre manifestazioni, non sono le Olimpiadi di Roma, sono le Olimpiadi dell'Italia, quindi il sistema di governo a tutti i livelli, dalle municipalità al comune, alle regioni, al governo centrale. È il coordinamento generale, il sistema Italia che fa nascere e sostiene le candidature. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.